Steve a mis au point différents réservoirs. Ci sono novità anche sul Heute Journal mit Klaus-Peter Siebler. La finestra sul cortile di Riccardo Chiaverge. Rieccoci, buona domenica a tutti dalla finestra sul cortile. Il cinema, si sa, è la fabbrica dei sogni, ma internet, il web, lo è, se possibile, ancora di più. Non tutti sanno, per esempio, che a Lagos, in Nigeria, c'è la seconda capitale mondiale del cinema. Si chiama Nollywood e sta contendendo il primato alla più famosa Bollywood indiana. E proprio a Lagos un giovane regista sogna di vincere l'Oscar sulla scia di Millionaire. A Londra, invece, un ex giornalista della BBC ha un altro sogno. Vorrebbe raccontare la storia della Seconda Guerra Mondiale attraverso un sito internet. Perché così, sostiene, gli inglesi hanno le idee molto confuse in proposito. Certo, se fosse solo un problema degli inglesi. Il cinema africano e la storia in rete sono i due argomenti principali di questa puntata della Finestra sul Cortile. Ma prima sentiamo cos'altro propone il nostro menù di oggi. Nigeria, Nollywood. Benvenuti nella capitale del cinema africano. Ma nel mondo chi lo conosce? Argentina, visti dagli altri. La letteratura di oggi si fa al telefono. Parola di Alessandro Baricco. Inghilterra, la storia 2.0. Nasce un sito web per insegnare agli inglesi la Seconda Guerra Mondiale. Germania, perché i popoli nordici non si fanno il bidet? Per motivi religiosi. Polonia. Fa discutere il nuovo film del regista russo Nikita Mikhalkov. Non è la risposta russa al soldato Ryan. È un brano della colonna sonora della Mia Africa, un film del 1985 diretto da Sidney Pollack, tutti ricorderete, ispirato all'omonimo romanzo di Karen Blixen con Meryl Streep e Robert Redford. E in questa puntata della Finestra sul Cortile parleremo per l'appunto di Africa, ma non della nostra Africa, cioè l'Africa vista dai bianchi colonizzatori o turisti, ma della loro Africa, cioè l'Africa vista e raccontata da chi ci vive e lavora. E in particolare ci riferiremo a quella esperienza straordinaria e per molti aspetti inconsueta e anche inquietante che è la capitale del cinema africano, cioè quella che nel gergo è stata battezzata Nollywood, da Nigeria e Hollywood. E perché? Perché un paese come la Nigeria, scrive di Alika Krae sullo Spiegel, sul settimanale tedesco Spiegel, è un paese in cui 2/3 della popolazione vivono con meno di $1 al giorno, eppure c'è un'industria milionaria che è al secondo posto dopo l'industria petrolifera nel paese e che si colloca al secondo posto nel mondo nella produzione di film. Addirittura nel 2010 produrrà 900 film e fa un fatturato di 148 milioni di euro. Noi che cosa ne sappiamo di questa industria di Lagos? Chi di noi ha visto un film prodotto a Lagos? Effettivamente questi film circolano soprattutto in Africa e anche in parte in America, ma in Germania e in Inghilterra, negli ambienti degli africani emigrati. E per il resto, insomma, conosciamo ben poco di questa produzione, ma di Alika Krae ci racconta un po' il retroscena di questo ambiente ed è quasi lo script, quasi il copione di un film, questo stesso articolo, perché ci racconta di un fatto racconto di un fattaccio che è accaduto proprio dietro le scene di Nollywood, cioè di questo regista Dixon Iregbu che ha sfidato l'establishment delle case produttrici locali, denunciando la corruzione e le mafie che spadroneggiano anche in questo ambiente e addirittura proponendosi come un produttore, un regista indipendente che vorrebbe ambire all'Oscar. Sta pensando di fare un film sui bambini soldato e sogna di avere come millionaire la statuetta d'oro a Hollywood. Ma in realtà, insomma, la realtà di questo mondo di Nollywood è ben diversa al momento, perché è controllata appunto da strutture, da interessi poco puliti. In questo momento un film a Nollywood costa soltanto $20,000 in confronto a $100 milioni di una produzione media hollywoodiana, e quindi si produce con pochi soldi, ma anche la qualità lascia molto a desiderare. Ecco, quando vedremo sugli nostri schermi un film nigeriano e quando soprattutto vedremo un nigeriano con la statuetta d'oro in mano? È difficile dirlo, ma vogliamo parlarne con un esperto che abbiamo al telefono e che ringraziamo di essere qui con noi, Paolo Mereghetti. Buongiorno. Buona domenica. Altrettanto. Paolo Mereghetti, giornalista, critico cinematografico del Corriere della Sera, autore di un celebre dizionario dei film che si pubblica dal 93. Ecco, ci sono dei film nigeriani nel tuo dizionario? Ci diamo del tu perché ci conosciamo dai banchi di scuola. No, soprattutto non ci sono questi film che vengono girati in Nigeria con pochi soldi, che sono fatti, diciamo, in una maniera con uno standard qualitativo molto basso, spesso girati in video. Ho letto anch'io degli articoli, non ne ho mai visto neanche uno. Sono film, diciamo, pensati per il pubblico locale, come fossero delle specie di soap opera cinematografiche, ecco. Non mi sembra che sia questo il modo per conquistare dei mercati, a meno che l'emigrazione nigeriana sia talmente ricca per cui poi ci si troveranno dei video store che anche, non so, in Italia, come succede per i film del Bangladesh o certo, per i film filippini, si riescono a trovare, ma sono, come dire, percorsi sotterranei assolutamente legati soltanto a queste comunità straniere, ecco. Ecco, però questo articolo dello Spiegel ricorda che c'è stato un film, c'è un precedente, insomma, che riguarda il Sudafrica, e cioè District 9, che è un film di fantascienza che è nato anche questo con pochi soldi, girato in soli 2 mesi e ha avuto 4 Oscar quest'anno, almeno. Quattro nominations, diciamo. 5 anni fa, nel 2005, se non sbaglio, ha vinto come miglior film straniero un film sudafricano che si chiamava Tutsi, che in italiano era uscito col titolo Il mio nome è Tutsi, che aveva battuto, certo, tra l'altro, la nostra Cristina Comencini, che era nell'ultima nomination italiana che abbiamo avuto, se non sbaglio. No, ogni tanto succedono cose di questo genere, però naturalmente, per esempio, dietro a District 9 c'è Peter Jackson, il produttore e regista del Signore degli Anelli, di King Kong, cioè ci sono magari dei registi locali con qualche idea interessante, ma ci sono capitali stranieri, e la stessa cosa era per questo Il mio amico Tutsi, che era coprodotto dalla Gran Bretagna. Insomma, devono avere qualche sponsor e soprattutto qualche struttura alle spalle che gli consenta, insomma, di raggiungere. Mi sembra di sì. Questo non vuol dire che non esista una cinematografia africana. L'Egitto ha una storia registica molto alta, molto importante, ahimè quasi completamente sconosciuta in Italia, però ha prodotto dei grandi film, e almeno un nome, quello di Youssef Chahine, che è morto non tanto tempo fa, se non mi sembra un anno fa, è sicuramente considerato un grande maestro del cinema. Poi Sembène Ousmane è un altro regista senegalese piuttosto importante. Ogni tanto ci sono dei registi che, cioè, a Venezia 2 anni fa, se non sbaglio, sì, 2 anni fa, o l'anno scorso addirittura, si è visto un bellissimo film di un regista etiope che si chiama Tezza, che è anche uscito, ha avuto una distribuzione italiana coraggiosa da parte della Ripley, anche qui però con produzioni, come dire, con capitali anche tedeschi. Certo. Diciamo che ci sono sempre un po' di coproduzioni che aiutano i registi a... Quindi non basta, ecco, non basta il talento individuale, come vorrebbe Dixon Iregbo, al quale naturalmente facciamo tutti i migliori auguri, ci vuole insomma qualcuno che abbia le spalle un po' più larghe. Ringraziamo Paolo Mereghetti di essere stato con noi, buona domenica e a presto. Buona domenica anche a voi. Visti dagli altri. Tuo fa l'americano, americano, americano, ma si nati in Italia. La nostra rubrica settimanale sugli italiani famosi all'estero ci porta questa domenica a Buenos Aires, dove il nostro Alessandro Baricco è stato ospite della Fiera del Libro Argentina ed è stato intervistato da Silvina Premat della Nación. E in questa intervista, oltre a dire che i suoi scrittori più amati sono argentini, da Borges a Cortázar a Osvaldo Soriano, dice che ama il mito argentino perché secondo lui è la congiunzione del tango, di Maradona e della Patagonia. Ma soprattutto dice che secondo lui i giovani di adesso, proprio attraverso l'uso del telefonino, degli SMS, scrivono molto di più di quanto scrivesse la sua generazione. E dice: non avremmo mai pensato che un giorno la scrittura si sarebbe incarnata in un telefonino, che saremmo messi a scrivere i romanzi al telefono. Come diceva il vecchio Domenico Modugno, piange il telefono. Ma dimmi, sai scrivere di già? A scuola come va? La finestra sul cortile. La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. La storia siamo noi. Siamo noi queste onde nel mare, questo rumore che rompe il silenzio, questo silenzio così duro da masticare. Avrete riconosciuto la voce di Francesco De Gregori nella canzone La storia siamo noi del 1985. La storia siamo noi, ma noi la sappiamo la storia. È quello che si domanda Lawrence Rees in un articolo sul Times. Lawrence Rees è stato per molti anni direttore di BBC History, carica da cui si è dimesso nel 2008, e adesso ha avviato un progetto molto ardito, cioè quello di creare un sito web sulla Seconda Guerra Mondiale, che si chiamerà www.2history.com. WW2 significa World War II, cioè Seconda Guerra Mondiale, history.com, che ha il proposito, insomma, di istruire i cittadini britannici sui fatti, gli eventi della Seconda Guerra Mondiale. Perché, sostiene Rees in questo articolo, gli inglesi veramente ne sanno poco e hanno le idee molto confuse. Ma se non si hanno le idee chiare su questo periodo della nostra storia recente, non capiamo niente di quello che sta succedendo, del rapporto tra Europa e America, dei problemi con la Russia, delle ragioni per cui l'Inghilterra, per esempio, ha un welfare state, ma non solo l'Inghilterra, e così via. Ora, Lawrence Rees, in questa sua iniziativa, in questo suo sito web, metterà tutti i filmati delle interviste ai grandi storici del Novecento e della Seconda Guerra Mondiale, come Jan Kershaw e altri. E ci sono tantissimi filmati che uno si potrà vedere, ma ci saranno livelli diversi di accessibilità, per cui ci saranno cose più facili e approfondimenti invece destinati a chi insomma vuole studiare un po' più a fondo. fondo le cose. Certo, è un progetto in cui il giornalista inglese ha investito molti soldi, e dice anche sua moglie, dice ci rischia di costarci 100.000 sterline se va male, che sono 115.000 euro, che non sono bruscolini, ma dice d'altra parte se non lo facciamo noi, dice non possiamo aspettarci che lo facciano le università che non hanno fondi. E comunque dice ma speriamo che altri seguano il mio esempio, perché non fare un sito web sulla Rivoluzione francese o sul Medioevo? Ecco, un sito web sul Medioevo. Buongiorno professor Cardini. Buongiorno. Buona domenica. Il professor Grazie. Franco Cardini, storico medievista, collaboratore tra l'altro anche del Sole della Domenica. Ecco, professore, ma i politici italiani ultimamente hanno dato segno di non conoscere molto bene la storia, in particolare la storia italiana. Cioè ci sono, abbiamo ascoltato per esempio il neo governatore del Veneto dire che i partigiani sono come i Vietcong che continuano a combattere a 60 anni dopo la guerra, confondendo i Vietcong con i giapponesi. E ne abbiamo sentite un po' di tutti i colori. Forse dovremmo cominciare dai politici a mandarli a scuola, no? Cosa ne dice? Ma il punto è tutti dobbiamo andare a scuola, anche e soprattutto quelli che fanno professione di scienza storica, visto che si parla di storia, ne parlo anche in prima persona, perché l'aggiornamento è una cosa fondamentale, perché si va male anche con la scuola, con l'università, proprio rispetto alla storia, forse anche rispetto, che so io, alla matematica, ma oggi parliamo di storia. Si va male principalmente anche perché i nostri professori non fanno aggiornamento, perché la scuola è asfittica e non si vede come potrebbero farlo a loro spese, fra l'altro, salvo alcuni miserabili tentativi. E il risultato è che poi l'appiccicaticcio studiato anni fa si traduce in una scienza sminuzzata da bignami di cui, ohimè, sono vittime e responsabili al tempo stesso anche quelli che dovrebbero essere gli addetti ai lavori, salvo alcuni, gli universitari, che in fondo sono pagati anche per fare ricerca, ma anche lì ha ragione Riss, la ricerca si sta strangolando. D'altra parte bisogna trovare degli sbocchi, lei diceva un web medievale, perché no? Io ho fatto una postfazione a un libro di Giacobbo sui Templari e sono sicuro che i miei colleghi me ne diranno di tutti i colori, però l'ho fatto proprio per questo e spiego nella mia postazione, badate, certo, non si date di Giacobbo, e Giacobbo lealmente non ha toccato una virgola. Giacobbo legge dei cattivi libri, fa un'insalata inglese, casualmente ne trova anche di buoni, ma insomma fa, però Giacobbo fa il suo mestiere. Cosa ha di buono dal mio punto di vista? Che sente a un certo punto che il terreno gli manca sotto i piedi, che quella non è la storia, si rivolge a un addetto ai lavori, che sarà un pessimo addetto ai lavori, questo è un altro discorso, ma che comunque un pochino l'ABC la conosce e chiede il confronto. E d'altra parte l'addetto ai lavori si trova davanti a una forca drammatica. Io faccio il medievista, questo mondo anche in Italia rigurgita di Medioevo, i Templari, il Santo Graal, le feste cittadine, i banchetti, i tornei, però i corsi di storia medievale vanno a remengo e i nostri ragazzi bravissimi che si laureano e che vorrebbero magari continuare la carriera non riescono nemmeno a diventare ricercatori. Allora c'è qualche cosa che non funziona, non solo, ma c'è il problema, lei parlava giustamente dei politici. Se i nostri politici non mostrassero continuamente la voglia di utilizzare la storia, di far uso della storia, per carità, l'hanno fatto nel Risorgimento, l'ha fatto il fascismo, l'ha fatto Stalin, il famoso Alexander Nevsky di Eisenstein, bellissimo, ma grande uso demagogico della storia. Sì, ma dico, la forcella ancora una volta è proprio questa. Questi vogliono fare uso della storia, e ma però non la conoscono. Ma infatti, non ne sanno un accidente. Infatti abbiamo letto proprio ieri che vogliono mettere le mani sulla giunta storica nazionale. C'è un disegno di legge in discussione, no? Che praticamente i membri della giunta storica, che, da cui dipendono gli istituti di studi storici italiani, vengono nominati in maggioranza dal ministro in carica. Ma questo significa che la storia è in balia delle maggioranze instabili che noi si succedono al governo. E sì, e francamente, insomma, che i ministri in carica avessero anche una qualche competenza di queste cose, forse sarebbe un po' meglio. Il problema è che ci troviamo, esatto, con ministri e con sottosegretari che, per carità, saranno ottime persone, ma non sono dei docenti di storia. Bene, noi ringraziamo il professor Cardini, buona domenica e a presto. Buona domenica anche a voi. E parliamo di storia, ma della storia di un oggetto un po' particolare, cioè il bidet. Perché è così diffuso nei bagni italiani e francesi, invece se uno va in Germania o in Inghilterra non lo trova e rimane una specie di oggetto misterioso? Perché, si chiede il Roberto Zapperi, un altro italiano famoso che collabora da anni alla Frankfurter Allgemeine Zeitung, si chiede il perché di questa assenza e conclude che è tutta una questione di religione. Secondo lo storico italiano, infatti, la mancanza del bidet nelle case del nord va attribuita niente meno che al puritanesimo, al rigorismo protestante, che tende a considerare il bidet un oggetto lascivo e corruttore. Soltanto i cattolici si lavano a pezzi, mentre una bella doccia fredda purifica davvero il corpo e lo spirito. E ci spostiamo in Polonia, sulla pagina della Gazeta Wyborcza. Anna Zebrowska commenta il nuovo film di Nikita Michalkov, il regista russo, autore tra l'altro del Sole ingannatore, che prese l'Oscar nel 1994, che ritorna con il sequel di questo film, Il Sole ingannatore 2, un film che già fa discutere ancora prima di uscire, verrà presentato a Cannes, costato 70 milioni di dollari, il film più caro dell'era postcomunista, e molti registi russi lo hanno preso di mira dicendo che è una propaganda dello stalinismo. Secondo la critica invece polacca, questo film al contrario smitizza la vittoria sovietica nella seconda guerra mondiale, e la cosa curiosa è che è stato scritto proprio dal figlio dell'uomo che compose l'inno nazionale stalinista. E per oggi è tutto, ringrazio Vittoria Mussini e Gloria Guerrera in redazione, Valerio Rocchetti in regia e come sempre Alessandro Melazzini da Monaco di Baviera. Saluto tutti voi e vi do appuntamento a domenica prossima, stessa ora. Scrivete le vostre mail alla finestra sul cortile @radio24.it.